Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, buongiorno e benvenuti, siamo tornati insieme e anche voi che siete magari in procinto di tornare dalle vacanze o magari siete già tornati ancora un po' frastornati, potete consolarvi con i consigli che fanno bene a tutta la famiglia di Alberto Pellai, che è qui in studio con me. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dopo la rivoluzione di settimana scorsa, speriamo che non ci siano mamma e papà all'ascolto un po' arrabbiati per quello che abbiamo combinato, oggi invece vi regaliamo il sorriso. Lavoriamo sull'ultima dimensione che costruisce il modello dell'autostima dei nostri figli e naturalmente di noi come genitori, ed è la dimensione della competenza emotiva. Impariamo a riconoscere le emozioni, a renderle il più possibile valide e a scambiarcele proprio in un processo di empatia. Per cui ho pronte tre piccole cose che dovrebbero divertire molto i nostri ascoltatori. La prima è chiedere ai genitori di andare a recuperare in un negozio di videonoleggio, o se per caso ce l'hanno ancora nei loro scaffali, un film che davvero li ha appassionati molto quando erano bambini, e proporre la visione di questo film o di una puntata del loro telefilm preferito ai figli che stanno diventando grandi. Quindi va bene sia per i figli della scuola elementare che per i preadolescenti. Presumo che i vostri figli adolescenti invece scappino. No, secondo me no, ci stanno. Levate, e fare proprio questo gioco di Amarcord, provando un po' a scoprire come è cambiato per esempio il modo di rappresentare le relazioni familiari, e anche identificare cosa poteva piacere alla vostra mamma e al vostro papà di questo film o di questo telefilm. Ecco, tu che cosa sceglierai? Ma sai che uno dei miei preferiti è sempre quello Pipì Calze Lunghe. C'era anche molto molto bello il papà con i sette figli, la famiglia Bradford, sì, che secondo me era una palestra incredibile di conflitti e di litigi, ma anche di esperienze molto belle tra fratelli. E invece rispetto ai film, credo proprio i cartoni di Walt Disney, che però sono senza età. Un gioco più molto simile, che potrebbe davvero stupire i vostri figli adolescenti, e invece andare a recuperare i vostri 45 giri di quando voi eravate adolescenti, scegliendo la musica migliore, quella che probabilmente è sopravvissuta al tempo. Forse avrete Beatles, Rolling Stones, avrete Bob Dylan, avrete, e ricostruire con loro, magari in una ricerca in internet, la storia proprio musicale, come fa Radio 24 con il programma I Magnifici, che ha avuto tanto seguito, ma anche eventualmente i testi delle canzoni, perché quello che farete vedere ai vostri figli è che molte magari delle cose che piacciono tanto adesso hanno le loro radici o sono profondamente contaminate da cose che vi appassionavano quando eravate adolescenti. Svelati, Alberto, cosa sceglierai? Guarda, io ho avuto veramente una, ti posso dire, i miei primi 4-45 giri acquistati sono stati, me la tiravo un po' forse quando ero adolescente, ma molto molto diversi fra di loro, perché c'era un 45 dei Beatles, un 45 degli ABBA, Generale di Francesco De Gregori, che è stato proprio una passione grandissima, e siccome eravamo sotto Natale, un 45 giri di Canti di Natale. Questo che è diventata, quando ho ricevuto, da cui hai iniziato la tua collezione. Esatto, quando ho ricevuto il mio primo mangiadischi. Ultimo consiglio a conclusione del nostro laboratorio, chissà se ce la fate, questo è davvero impegnativo, però è una cosa che più volte vi abbiamo consigliato proprio anche durante i programmi di Nicoletta. Se potete, fermate questa estate il momento più bello che avete vissuto in una lettera da lasciare sotto il cuscino a vostro figlio, e provate a raccontargli il momento che non dimenticherete mai e perché vi ha così colpito quello che ha fatto o vi ha detto vostro figlio, sia che abbia 7 anni, sia che ne abbia 10, sia che ne abbia 15. Lasciategli questo scritto sotto 18, il cuscino. 21, certo, questo via. Serve anche questo per i figli grandi, per tutto, serve anche per noi genitori. Fatelo anche per vostro marito, per la vostra moglie o anche per la vostra mamma. Alberto, ti ringrazio, noi vabbè ci vediamo presto, domani siamo di nuovo qui, e adesso è tempo di andare a sentire i titoli del nostro sommario.

Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica all'Università degli Studi di Trieste. Con lei, professore, cercheremo di capire se sono le nostre mamme ad aver condizionato il nostro gusto, gli anni che passano, o se nasciamo già con le idee, con i gusti ben chiari. Certamente. Insieme a noi abbiamo anche il dottor Crepaldi, medico, agopuntore, esperto in medicina tradizionale cinese e presidente della Fondazione Ricci, perché cambiando la latitudine cambiano anche i sapori in un certo senso. È così, dottor Crepaldi? Sì, cambiano, si modificano leggermente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottor Crepaldi. E allora, iniziamo a capire qualche cosa di più della nostra personalità. Professoressa Tappatà. Diciamo subito che sicuramente i gusti evocano dei contesti emozionali molto, molto diversi, perché anche per esempio nelle metafore linguistiche il dolce è collegato ad emozioni molto gratificanti, a qualcosa di tenero, a qualcosa di infantile, non so, il piccante invece è legato a qualcosa di aggressivo, di stimolante. Sì. Il salato è profondamente connesso con una sensazione di forza, di quasi aggressività. Non so, c'è anche la battuta salace, per dire la verità, ecco. È vero. Per cui arguta questa professoressa Tappatà. Ha visto? È vero. Potrei anche sorprenderla dicendo che l'amaro è legato a qualcosa di triste, tipo l'amaro calice. Però, è vero. Dolce e salato sono interessanti perché richiamano anche proprio stili di vita, stili proprio davvero. Il gusto alimentare, più ci si pensa, più racconta qualcosa di noi stessi. Non so, il dolce è più edonistico, il salato è più alimentare, cioè se io parlo con una persona che ama il dolce, questo mi richiamerà il gelato, la Nutella, il cioccolato. Sì. Chi ama il salato invece è qualcosa di più francamente alimentare, che si mastica. Anche la durezza e la morbidezza, per esempio, dei cibi è molto, sì, diversa a seconda che si parli con una persona dolce o con una persona salata. Professor Gasparini, questa predilezione per un sapore piuttosto che un altro si acquista con gli anni, è condizionata dalle nostre mamme, dicevamo, quindi dal posto in cui uno vive, dallo stile alimentare della nostra terra, oppure nasciamo già con i sapori già presenti? No, quello che succede è che noi nasciamo, almeno questo è noto per l'amaro e in parte anche per il salato, noi nasciamo già con una capacità di percepire di più o di meno l'amaro e il salato. E questa capacità di percepirlo di più o di meno varia da popolazione a popolazione. Nel caso del piccante è importante ricordare che il piccante deriva dal numero di terminazioni, la percezione del piccante, sì, dal numero di terminazioni del nervo trigemino nella bocca, e anche in questo caso in genere chi non percepisce l'amaro in maniera molto forte tende a essere meno sensibile al piccante. Ah, quindi c'è una specie di relazione. C'è anche una specie di relazione, diciamo, anatomica, sì, rispetto al piccante. Il piccante dà, se vogliamo, comunque anche una quota di assuefazione, però è indubbio che le sostanze urticanti, il piccante o tanto urticante, essendo percepite dal terminazione del nervo trigemino, sono ricevute collegate a chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Senta, professore, ma il gusto influenza anche il nostro stato di salute? Sicuramente sì, per esempio quelli che non hanno una grande percezione dell'amaro, come sono io per esempio, in genere prediligono dei cibi che possono essere fortemente amari o contenere delle sostanze che danno l'amaro. Pensiamo a tutti i cavoli, le cavolacee, le brassicacee, sì, e questi cavoli per esempio interferiscono con il metabolismo dello iodio, e quindi in quei posti dove non c'è un'elevata concentrazione di iodio come in montagna, essere un non-taster e quindi mangiare più alimenti di questo tipo non è un grande vantaggio. Un'altra cosa che abbiamo dimostrato sia noi, ma che è abbastanza nota in letteratura, è che per esempio i non-tester tendono ad avere una massa corporea, quindi diciamo più grossa, diciamo, non dico tendere all'obesità, ma insomma, no, più cicciottelli, possiamo dire così, più morbidi. Sì, esatto, più morbidi, un po' più bignese. Ecco, un po' più bignese. Senta, c'è Gabriele che ci scrive: a Verona si dice che se la donna incinta preferisce il salato, nascerà un maschio, se per il dolce invece una donna. Ha un razionale scientifico? Non saprei rispondere, come pancia punta, non va in guerra. Credo. Adesso però si è visto che le nausee in qualche modo proteggono il bambino, ne parlavamo la scorsa settimana col professor Remuzzi. Dottor Crepaldi, tocca a lei, andiamo in Cina, dolce, salato, i cinesi lo avvertono, cioè secondo loro è un altro sapore, vero? Hanno dei sapori più neutri, molto più blandi. Più moderati. la cucina tradizionale cinese, quella che si rifà alla medicina tradizionale cinese, predilige tutti i gusti, i sapori molto moderati. Quindi ad esempio il riferimento del sapore dolce è il riso cotto però senza condimenti. Sì. Fabio Cantadori in regia non gli piace il riso. Se quello è il dolce, forse si butta sul salato, ma dove si potrebbe buttare sul salato in Cina? Il salato invece, sempre per stare nello stesso tipo di paragone, è il salato della vongola, della cozza. Cioè però non neanche non con questo l'aggiunta di sale. Insomma, Fabio Cantadori, che adesso in regia è meglio che stia qua, perché in Cina non mangerebbe di gusto. Questo perché i sapori secondo la tradizione cinese hanno un'azione sugli organi in modo molto preciso. Sì. Ad esempio il sapore dolce ha un'azione su tutto quello che è l'apparato digerente e il sapore salato su quello che è il rene. E quindi l'eccesso del sapore, la moderazione del sapore nutre, si dice così in gergo, l'organo, invece l'eccesso è lesivo. Questi sapori hanno tutte delle azioni energetiche molto precise. Ad esempio il dolce rilassa, modera, armonizza, è diaforetico, mentre il salato è emolliente, ammorbidiente, ramollente. Quindi un buon riso bollito a chi fa bene, in sostanza. Siamo quasi all'ora di pranzo, no? Almeno stiamo bene, quello fa bene a tutti, perché è la cosa maggiormente digeribile che dà più energia. Infatti, a poco non è tanto invitante, però quando non stiamo bene un piatto di riso bollito lo cerchiamo volentieri. E, invece per chi predilige il salato, lei ci diceva che il sapore è quello un po' delle vongole, no? Del mollusco. Sì. Non bisogna esagerare, ma secondo la medicina tradizionale cinese rinforza il rene? Il rene, infatti il salato in eccesso danneggia ad esempio i vasi, danneggia anche le ossa. Ed è quello che la medicina cinese, che credo abbia un razionale anche nella nostra medicina. Vero, perché ad esempio, sempre per il sale, agli ipertesi è sconsigliato, no? Un eccesso di sale, anzi si riduce. Allora, abbiamo cercato di scoprire qualcosa di più sul nostro modo di stare a tavola, sulla predilezione di un cibo, per un cibo piuttosto che per un altro. Allora, ringrazio la professoressa Tappatà, grazie. Il professor Paolo Gasbarrini e il dottor Crepaldi, speriamo di risentirci presto. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. E adesso voglio parlarvi di una ricerca molto interessante che spiega le ragioni che stanno alla base del piacere che le persone provano nell'osservare i loro simili in azione. Non è solo curiosità, o almeno lo è solo in parte. In linea con noi la professoressa Alice Mado Proverbio, professore associato di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Milano Bicocca. Professoressa, buongiorno. Salve. Allora, guardando si impara, e non è un modo di dire, la scienza lo conferma. Esattamente, infatti guardando le azioni e i gesti dei nostri conspecifici siamo in grado di apprendere non soltanto nuove abilità tecniche oppure musicali o anche sportive, ma siamo anche in grado di interpretare il comportamento degli altri, in particolare le intenzioni dei gesti altrui. Infatti il nostro cervello decodifica automaticamente lo scopo delle azioni degli altri, anche lo stato d'animo, attraverso un particolare sistema di neuroni sensomotori, che sono detti neuroni specchio, che si attivano non soltanto alla vista dei movimenti altrui, ma che sono anche in grado di controllare i nostri stessi movimenti. Così quando per esempio noi osserviamo qualcuno che dà un calcio a un pallone, in parte si attivano nel nostro cervello gli stessi neuroni che controllano il nostro corpo quando siamo noi stessi a calciare il pallone. Ecco perché troviamo così piacevole, così remunerativo guardare gli altri, per esempio che giocano a calcio, fanno sport, mentre magari noi siamo comodamente seduti in una panchina allo stadio. Infatti ci sono molti sportivi di questo tipo. Ma professoressa, veniamo alla vostra ricerca. Voi avete analizzato le attività cerebrali di studenti universitari, maschi e femmine, mentre osservavano diapositive di persone impegnate in movimenti dinamici rispetto a diapositive di persone ritratte in pose statiche. In pratica avete cercato di capire che cosa si attiva osservando l'immagine di una persona che salta o si tuffa rispetto ad una in cui si vede, che so, un giocatore di scacchi. Esattamente, quindi noi abbiamo misurato l'attività bioelettrica